Al-Anbiya, i profeti. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Si avvicina per gli uomini la resa dei loro conti, mentre essi incuranti trascurano. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Non giunse loro alcun monito da parte del loro Signore che non ascoltassero i riverenti. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Con i cuori distratti, mentre gli ingiusti tengono tra loro segreti conciliaboli. Chi è costui se non un uomo come voi? Volete lasciarvi andare alla magia a voi che lucidamente vedete? قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Disse: il mio Signore conosce ogni parola pronunciata nel cielo e sulla terra. Egli tutto ascolta e conosce. بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. Dissero: sono invece incubi confusi. O è lui che li ha inventati? Non è che un poeta? Ci mostri piuttosto un segno come quelli che furono inviati agli antichi profeti. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Tutte le comunità che facemmo perire prima di loro non credettero. Crederanno questi? وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Prima di te non inviammo che uomini ai quali comunicammo la rivelazione. Chiedete alla gente della scrittura se non lo sapete. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Non facemmo corpi che facessero a meno del cibo e neppure erano eterni. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ. Realizzammo su di loro la promessa. Salvammo loro e quelli che volemmo, e facemmo perire i prevaricatori. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. In verità abbiamo fatto scendere su di voi un libro contenente il monito per voi. Non comprenderete? وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. Quante ingiuste città distruggemmo per suscitare poi un altro popolo. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. Quando avvertirono la nostra severità, fuggirono precipitosamente. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Non fuggite, ritornate nel lusso e nelle vostre case. Forse ve ne sarà chiesto conto. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Dissero, guai a noi, in vero siamo stati ingiusti. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Non smisero di gridarlo finché ne facemmo messi falciate, senza vita. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Non è per gioco che creammo il cielo e la terra e quel che vi è fra mezzo. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Se avessimo voluto divertirci, lo avremmo fatto presso noi stessi, se mai avessimo voluto farlo. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. E invece no. Scagliamo la verità sulla menzogna, che le schiacci la testa. Ed ecco che essa scompare. Siate maledetti per quello che affermate. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Solo a lui appartengono tutti quelli che sono nei cieli e sulla terra. Coloro che sono presso di lui non disdegnano di adorarlo e non se ne stancano. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Lo glorificano notte e giorno ininterrottamente. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. Oppure, han tratto dalla terra divinità che risuscitano? لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Se nei cieli e sulla terra ci fossero altre divinità oltre ad Allah, già gli uni e l'altra sarebbero corrotti. Gloria ad Allah, Signore del trono, ben al di sopra di quello che gli attribuiscono. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Non sarà lui ad essere interrogato, sono loro che lo saranno. Amittakhadhu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum. هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ. Si son presi dei all'infuori di lui? Di, mostrate la vostra prova. Questo è un monito per coloro che sono con me e per coloro che furono prima di me. Ma la maggior parte di essi non conoscono la verità e se ne discostano. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Non inviammo prima di te nessun messaggero senza rivelargli: non c'è altro Dio che me, adoratemi. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Dicono: il compassionevole si è preso un figlio. Gloria a lui, quelli non sono che servi onorati. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Che mai precedono il suo dire e agiscono secondo il suo ordine. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Egli conosce quel che li precede e quel che li segue, ed essi non intercedono se non in favore di coloro di cui si compiace, e sono compenetrati di timor di lui. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Chi di loro dicesse: davvero io sono un Dio all'infuori di lui, lo compenseremo con l'inferno. È così che compensiamo gli ingiusti. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفلا يؤمنون. Non sanno dunque i miscredenti che i cieli e la terra formavano una massa compatta? Poi li separammo e traemmo dall'acqua ogni essere vivente. Ancora non credono? وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Abbiamo infisso sulla terra le montagne affinché non oscilli coinvolgendoli e vi ponemmo larghi passi. Si sapranno dirigere? وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. E del cielo abbiamo fatto una volta sicura, eppure essi si distolgono dai segni. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Egli è colui che ha creato la notte e il giorno, il sole e la luna. Ciascuno naviga nella sua orbita. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Non concedemmo all'immortalità a nessun uomo che ti ha preceduto. Dovresti forse morire se essi fossero immortali? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitnah wa ilayna turja'un. Ogni anima gusterà la morte. Vi sottoporremo alla tentazione con il male e con il bene, e poi a noi sarete ricondotti. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Quando i miscredenti ti vedono, non fanno che burlarsi di te. Cosa? È costui che dice male dei vostri dei? E negano il monito del compassionevole. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. L'uomo è stato creato d'impazienza. Vi mostrerò i miei segni. Non chiedetemi di affrettarli. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dicono, quando si realizzerà questa promessa? Ditecelo se siete veritieri. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Ah, se i miscredenti conoscessero il momento in cui non potranno allontanare il fuoco dai loro volti e dalle loro schiene e non potranno essere soccorsi. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. E invece giungerà loro all'improvviso e ne saranno sbalorditi. Non potranno allontanarlo e non sarà dato loro un rinvio. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Già furono derisi i messaggeri che ti precedettero. Ciò di cui si burlavano avvolgerà coloro che deridevano. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Di, chi potrebbe mai proteggervi notte e giorno dal compassionevole? E invece sono indifferenti al monito del loro Signore. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ. Dispongono forse all'infuori di noi di dei che sappiano proteggerli? Questi non possono neppure difendere loro stessi, né trovare altri che li difendano contro di noi. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. In effetti, concedemmo a loro e ai loro avi un godimento effimero, finché non furono longevi. Non vedono che investiamo la terra riducendola da ogni lato? Sono forse loro i vincitori? قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. Di, non faccio altro che avvertirvi con la rivelazione, ma i sordi non odono il richiamo quando li si avverte. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Se solo li sfiorasse un alito del castigo del tuo Signore, certamente direbbero: guai a noi, in vero, siamo stati ingiusti. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Rizzeremo bilance esatte nel giorno della resurrezione e nessuna anima subirà alcun torto. Fosse anche del peso di un granello di senape, lo riesumeremo. Basteremo noi a tirare le somme. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. In verità demmo a Mosè e ad Aronne il discrimine, una luce e un monito per i pii. Alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Che temono il loro Signore in quello che è invisibile e che trepidano per l'ora. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Questo è un monito benedetto che abbiamo fatto scendere. Lo rinnegherete? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Siamo noi che conducemmo Abramo sulla retta via, noi che lo conoscevamo. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. quando disse a suo padre e alla sua gente: cosa sono queste statue in cui credete? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Risposero: trovammo i nostri avi che le adoravano. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Disse: certo siete stati nell'errore più palese, voi e i vostri avi. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Dissero: sei venuto con la verità o stai scherzando? قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Disse: certo che no, il vostro Signore è il Signore dei cieli e della terra, è Lui che li ha creati e io sono tra coloro che lo attestano. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. E giuro per Allah che tramerò contro i vostri idoli non appena volterete le spalle. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. E infatti li ridusse in briciole, eccetto il più grande, affinché si rivolgessero ad esso. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Dissero: chi ha fatto questo ai nostri dei è certo un iniquo. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Disse qualcuno di loro: abbiamo sentito un giovane che li disprezzava, si chiama Abramo. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Dissero: conducetelo al nostro cospetto affinché possano testimoniare. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Dissero: o Abramo, sei stato tu a far questo ai nostri dei? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Disse: è il più grande di loro che lo ha fatto, interrogateli se possono parlare. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Si avvidero del loro imbarazzo e dissero tra loro: davvero siete stati ingiusti. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Fecero un voltafaccia e dissero: ben sai che essi non parlano. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Disse: adorate all'infuori di Allah qualcuno che non vi giova e non vi nuoce? Uffillakum wa lima ta'buduna min dunillah, afala ta'qilun. Vergognatevi di voi stessi e di ciò che adorate all'infuori di Allah. Non ragionate dunque? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Dissero: bruciatelo e andate in aiuto dei vostri dei se siete in grado di farlo. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Dicemmo: fuoco, sii frescura e pace per Abramo. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Tramarono contro di lui, ma facemmo sì che fossero loro i perdenti. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Salvammo lui e Lot e li guidammo verso una terra che colmammo di benedizione per i popoli. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. E gli demmo Isacco e Giacobbe e ne facemmo dei devoti. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Ne facemmo capi che dirigessero le genti secondo il nostro ordine. Rivelammo loro di fare il bene, di osservare l'orazione e di versare la decima. Erano nostri adoratori. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. E a Lot demmo saggezza e scienza e lo salvammo dalla città in cui si commettevano turpitudini. In verità, erano un popolo malvagio e perverso. وأدخلناه في رحمتنا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Lo facemmo entrare nella nostra misericordia. Egli era davvero un devoto. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. E quando in precedenza Noè implorò, noi gli rispondemmo e lo salvammo dal terribile cataclisma, insieme con la sua famiglia. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Li prestammo soccorso contro la gente che smentiva i nostri segni. Erano davvero uomini malvagi. Tutti li annegammo. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Davide e Salomone giudicarono a proposito di un campo coltivato che un gregge di montoni, appartenente a certa gente, aveva devastato pascolandovi di notte. Fummo testimoni del loro giudizio. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Facemmo sì che Salomone comprendesse correttamente. Demmo ad entrambi saggezza e scienza. Costringemmo le montagne a rendere gloria insieme con Davide e gli uccelli insieme. Siamo noi che lo abbiamo fatto. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. Gli insegnammo a vostro vantaggio la fabbricazione delle cotte di maglia affinché vi proteggessero dalla vostra stessa violenza. Ne sarete mai riconoscenti? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. E sottomettemmo il vento impetuoso a Salomone. Al suo ordine soffiava sulla terra che abbiamo benedetta. Noi conosciamo ogni cosa. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. E fra i demoni alcuni si tuffavano per lui e compivano altre opere ancora. Eravamo noi a sorvegliarli. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. E si rivolse Giobbe al suo Signore. Il male mi ha colpito, ma tu sei il più misericordioso dei misericordiosi. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Gli rispondemmo. E lo sollevammo dal male che lo affliggeva, e gli restituimmo la sua famiglia e un'altra ancora, segno di misericordia da parte nostra e monito per coloro che ci adorano. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. E Ismaele e Idris e Dhul Kifl. Tutti furono perseveranti. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Che facemmo beneficiare della nostra misericordia. Tutti erano dei devoti. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. E l'uomo del pesce, quando se ne andò irritato, pensava che non lo mettessimo alla prova. Poi implorò così nelle tenebre: «Non c'è altro Dio all'infuori di te. Gloria a te. Io sono stato un ingiusto». فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Gli rispondemmo e lo salvammo dalla disperazione. Così salviamo coloro che credono. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. E Zaccaria si rivolse al suo Signore: «Non lasciarmi solo, Signore, tu sei il migliore degli eredi». فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Lo esaudimmo e gli demmo Giovanni e sanammo la sua sposa. In verità s'affettavano al bene, ci invocavano con amore e trepidazione ed erano umili davanti a noi. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. E ricorda colei che ha mantenuto la sua castità. Insufflammo in essa del nostro spirito e facemmo di lei e di suo figlio un segno per i mondi. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Sì, questa vostra comunità è un'unica comunità e io sono il vostro Signore. Adoratemi. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. Si divisero invece, ma infine tutti a noi faranno ritorno. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Chi compie il bene ed è credente non vedrà disconosciuto il suo sforzo, che noi lo registriamo. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Agli abitanti delle città che facemmo perire è vietato ritornare al mondo. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. fino al momento in cui si scateneranno Gog e Magog e dilagheranno da ogni altura. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. La vera promessa si approssima e gli sguardi dei miscredenti si fanno sbarrati. Guai a noi, siamo stati distratti. Peggio ancora, siamo stati ingiusti. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Voi e quelli che adoravate all'infuori di Allah sarete combustibile dell'inferno, non potrete evitarlo. Law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Se quegli altri fossero stati dei, non vi sarebbero entrati, vi rimarranno tutti in perpetuo. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Colà gemeranno, ma nessuno li ascolterà. Innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Ne saranno esclusi coloro per i quali il nostro bene ha avuto il sopravvento. La yasma'una hasisaha wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun. Non ne sentiranno il fragore e godranno per sempre quello che le loro anime desiderano. La yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Non li affliggerà la grande angoscia e gli angeli li accoglieranno. Ecco il giorno che vi era stato promesso. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Il giorno in cui avvolgeremo il cielo come gli scritti sono avvolti in rotoli. Come iniziammo la prima creazione, così la reitereremo. È nostra promessa. Saremo noi a farlo. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Lo abbiamo scritto nel Salterio dopo che venne il monito. La terra sarà ereditata dai miei servi devoti. Inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin. In verità in ciò vi è un messaggio per un popolo di adoratori. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Non ti mandammo se non come misericordia per il creato. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ Di. In verità mi è stato rivelato che il vostro Dio è un Dio unico. Sarete musulmani? فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ Se poi volgono le spalle, allora di, io vi ho avvertiti tutti senza discriminazioni, ma non so se ciò che vi è stato promesso è prossimo o lontano. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ Egli conosce quello che proclamate e quello che tenete segreto. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ Non so se ciò sia una tentazione per voi, un effimero godimento. قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Di, mio Signore, giudica secondo verità. Il nostro Signore è il compassionevole. Da Lui invochiamo aiuto contro ciò che affermate.